Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this product to explain in due time. All I know. Robinson deve tornare sui suoi passi. Mette il cross con il destro. Balotelli. Trattenuto Balotelli. Calcio di rigore. Balotelli per in. Para rigore a Balotelli. Secondo errore per Mario Balotelli dagli 11 metri. Sappiamo anche che non stanno svolgendo la vita da calciatore e questo ci dà molto fastidio, visto che c'è gente che fa sacrifici per seguirli, come è sempre fatto, e ultimamente non stanno dimostrando di onorare la nostra maglia. Diciamo dovremmo essere più forti in questi momenti qua, però diamo ancora una chance. E viene dato la chance ancora stasera, è stata una contestazione civile e ci auguriamo che loro la capiscono, perché se no spero che gliela faremo capire noi. .00240024, copertina montata dall'autore Franco Piantanida. Pier, ci sei? Eccolo qua, Piantanida mi ha fatto sognare. Ti ha fatto sognare? Beh, ti do le notizie dal fronte, da quella trincea che è diventato Milanello. Ti ricordi i tempi in cui era il mulino rossonero, il mulino bianco? Stamattina gran casino, Ma anche ieri, sì, anche ieri. Non ci fanno mancare nulla. Allora, notizie dal fronte Milanello questa mattina. Mario Balotelli intanto ha replicato il ritardo di ieri. Ieri 10 minuti, questa volta 25. E poi chi ha assistito alla parte iniziale dell'allenamento l'ha descritto come molto svogliato Balotelli. Pier? Ma guarda, io ne parlavo anche ieri, non ci sono spiegazioni onestamente. Alcune uscite di Balotelli in questo periodo fanno pensare veramente o che si stia cercando di tirare la corda per andar via, anche se è una cosa chiaramente smentita da tutti, ma insomma io mi ricordo pure come è andato via dal Manchester City Balotelli, perché poi insomma le cose possiamo rimuoverle e fare tutto il tifo per lui e io lo faccio, però voglio dire, è andato via dal Manchester City dopo un litigio clamoroso con tanto di foto su tabloid con le mani addosso tra lui e Mancini. Sì, è uno schema che si ripete, è uno schema che oramai è anche abbastanza prevedibile. Noi dobbiamo contemplare, certo. L'ipotesi che tutto questo, poi ovviamente ci auguriamo che domani Balotelli faccia una partita pazzesca, faccia tre gol a Glasgow e che tutto si ricomponga, però in questo momento quell'ipotesi lì, perché altrimenti alcune cose non te le spieghi, anche questo famoso tweet del quale mi sento anche violentato intellettualmente, che dobbiamo stare qui 10 minuti a parlare del tweet di Balotelli. Sì. È chiaro che uno alle 5:11 del mattino può fare quello che gli pare, però c'è un fatto di opportunità, no? Sì, sì, non c'è dubbio. Credo che a tutti noi della vita sia capitato di avere magari una ramanzina dal capo. E il direttore che ti fa una volta che sbagli, fa il giorno dopo ci stai attento, no? Cioè dai un segnale, poi magari dopo una settimana risbacchi, però il giorno dopo ci stai attento. Se il giorno dopo non ci stai attento, allora vuol dire che stai provocando. Se il giorno dopo non ci stai attento, secondo me vuol dire che sei Balotelli nel bene e nel male. Senti qui, Barbara Berlusconi presente questa mattina a Milanello, non sarà a Glasgow domani, ma in questi minuti è nel ritiro della squadra, ha assistito alla parte finale della rifinitura, pranzerà insieme alla squadra, sta pranzando insieme alla squadra. Sai chi non c'è a Milanello? Galliani. Non c'è Galliani, il grande assente, che però arriverà alle 16 alla Malpensa, si imbarcherà per la Scozia e sarà lui a seguire la squadra in questa trasferta cruciale per la Champions League. Mi sembrano, Pier, frammenti da ultimi giorni o settimane o mesi, poi vedremo, insomma, frammenti di caduta di un impero. Beh, insomma, insomma, la suggestione di un addio immediato di Galliani è una suggestione che in queste ore chi segue il Milan tutti i giorni ha lanciato con grande forza. Qui mi sembra che ci sia stata quasi una turnazione, no? Con Barbara che va al pranzo e che accompagna la squadra nella vigilia milanese e Galliani invece che la accompagnerà in Scozia. Insomma, anche qui mi sembrano segnali molto evidenti che qualcosa non va. Che no, assolutamente. Tra l'altro, secondo me, non va neanche benissimo che Barbara Berlusconi non vada a Glasgow se vuole essere la figura che deve essere per il Milan, che aspira ad essere. Sì, però adesso, magari da gennaio. Magari da gennaio. Ci può essere anche un discorso di opportunità. Dici. No, questa cosa io non mi sento proprio per evitare magari le inquadrature viste al Camp Nou. Sì, dove comunque alla fine secondo me non è che si siano comportati male, così come è stato molto divertente l'altro giorno il siparietto in tribuna. Sì. Insomma, io trovo che poi alla fine sono tutti personaggi dotati di grande buon senso. Il problema c'è, oggettivo. Cioè, secondo me loro non, anche la serata dell'altro giorno alla Fondazione Milan, loro dal punto di vista della comunicazione sono bravissimi tutti, è bravissimo Galliani e bravissima Barbara Berlusconi. È un fatto di DNA e di cultura del Milan quello. Il problema è sostanziale, cioè secondo me non. Il problema è che così non si può andare avanti. Il problema è sostanziale, cioè in un modo il problema nell'altro. È il tipo di rapporti. Poi in tribuna, anzi, per essere delle persone che secondo alcuni si dovrebbero odiare tra mille virgolette o comunque essere in feroce contrasto, mi sembra che abbiano un rapporto pubblico che è assolutamente ineccepibile. E poi sul discorso di Barbara Berlusconi mi sento per dire anche, cioè, De Laurentiis domani non va a Dortmund. Sì, la figura di riferimento deve essere sempre comunque attaccata. È importante che si faccia sentire, che abbia il carisma per farsi sentire, e questo lo scopriremo. Questo lo scopriremo, e scopriremo anche eventualmente, in assenza di Galliani, da Natale o prima, come si dice, si scrive, se Barbara Berlusconi avrà la forza di essere quella figura anche presente vicino alla squadra. Io questo intendevo. Però Pier, abbiamo un'ora per parlarne, adesso traffico. Mario ha sbagliato, Mario chiede scusa, però adesso non voglio esagerare a chiedere scusa a tutti quanti, perché non è che ha ammazzato qualcuno, eh? Tutti convocati. Convocati. Ti leggo alcuni messaggi, Pier, che arrivano al 349-238-6666. Ai tifosi del Milan come me, delusi e rassegnati, chi ci pensa? Quest'anno saremo la barzelletta d'Europa. Andremo in Serie B con Kakà e Balotelli che non sopporto più. Questo è Luca. Secondo me il Milan non va in Serie B. No, non va in B. Sul concetto di barzelletta io posso solo ripetere quello che dico spesso, che poi il calcio cambia ovviamente di giorno in giorno, addirittura di partita in partita, scenari, umori. Insomma, io penso che, lo ripeto, il tifoso del Milan è un tifoso negli ultimi 25 anni ha goduto come forse nessun altro tifoso in giro per l'Italia e per l'Europa, quindi questo non bisogna mai dimenticarselo. In questo momento sicuramente c'è tanta confusione e il Milan è un po'... può anche creare quel clima, sì, quel tifoso che si sente una barzelletta di pessimismo e di depressione. Però insomma, stiamo parlando di una squadra che ha vinto la Champions League 6 anni fa, non 50 anni fa per l'ultima volta, una squadra che ha vinto il campionato in tempi comunque recenti nel 2011, per cui insomma ci vuole secondo me un po' di equilibrio, altrimenti veramente si rischia. Ma è difficile avere equilibrio per i tifosi, è no, anche certo, il bello del certo. Calcio. Ci dicono anche quello di sabato non è un rigore, è un passaggio al portiere, con tutto il bene che voglio a Balotelli, e questo è Marco, e poi un altro tifoso illuso da Milano: con la liquidazione di Galliani si potrebbe comprare mezza difesa nuova al Milan, non potrebbe rinunciare ai soldi visto che è milanista, perché? Dai, è una provocazione. Non scherziamo. Non è giusto che rinuncia ai soldi. No, sul discorso di Balotelli, insomma, io non penso che un giocatore mai sbagli un rigore apposta, ma quindi proprio, secondo me quel tipo di pensiero di quel tifoso lì deve essere stato scacciato via dalla mente in maniera totale. È un momento in cui le cose gli vanno male, però quello che veramente dispiace è che non c'è una reazione ai problemi da grande giocatore, da grande leader, che poi è il vero punto interrogativo, è il motivo per il quale c'era tanto entusiasmo all'inizio dell'esperienza di Balotelli al Milan, perché sembrava veramente che il Milan, con le sue spalle larghe, da società comunque di grande tradizione, di grande storia, potesse essere veramente il luogo accogliente per tirar fuori il meglio dal punto di vista psicologico da Balotelli. Io credo che oggi ci sia anche un discorso nazionale che deve essere aperto, se dovessero continuare. Ah, non c'è dubbio. Anche se poi non c'è dubbio. Primo a dire che Balotelli per me è imprescindibile, perché ha dei colpi talmente straordinari, una fisicità talmente straordinaria che non portarlo sarebbe un suicidio. Però in questo momento, su tanti discorsi, dal codice etico in poi, io credo che anche Prandelli sia in difficoltà a difenderlo. Credo anch'io. 800 24 00 24, Nico da Milano. Buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Balotelli, veramente non so più da che parte prenderlo. Ieri sicuramente non ha sbagliato apposta un calcio di rigore, ma l'ha tirato con una controvoglia. Allora, diciamo una cosa, Balotelli è arrivato al Milan dopo una frase di Berlusconi, in cui Berlusconi certamente non l'aveva dipinto come sì, quello della mela marcia. Cioè, Berlusconi, ricordiamoci cosa disse di Balotelli. Per cui Balotelli, che è una persona estremamente presuntuosa e che si tiene le cose, è arrivato al Milan, sì, la cosa poi era stata un po' sepolta, un po' sotto gli zuccheri dell'arrivo, ma lui se l'è legata un po' al dito quella cosa lì. Penso che non è mai riuscito a fare veramente gruppo nel Milan, eh? Penso che sia un buon giocatore, ma non sia questo fuori classe che tutti dipingono. È un buon giocatore sicuramente, che ha dei grossi colpi, però è una persona che ha Nico, non credo che il problema sia stato il suo approccio con il Milan, che anzi Pier mi è sembrato assolutamente positivo. Però se vuoi lo chiediamo a Stefano Eragno, che ci ha raggiunto. Stefano, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Io non credo che il problema, Stefano, per Balotelli sia stato l'approccio con il mondo Milan. Mi sembra che i problemi siano sorti dopo, semmai. Eh sì, l'approccio è stato più che positivo. Il problema è che questo giocatore non riesce a dare continuità, un po' anche per il modo, gli atteggiamenti che ha, perché se va tutto bene anche il popolo milanista apprezza, però quando inizia a non giocare come di solito ci ha abituato, anche il popolo si ricorda le forse della maglietta che indossava precedentemente, anche perché non attira grandi simpatie, no? Questo giocatore è un po' il problema che hanno anche lo stesso Ibrahimovic, che come atteggiamento non è proprio dei migliori, e perciò nel momento che riesce a giocare al massimo viene apprezzato, viene idolatrato, mentre invece il problema è inverso quando, purtroppo, visto che sono esseri umani, non sempre possono rendere al meglio, diventa un bersaglio per tutti. Ma uno come lui in questo momento, tu conosci benissimo uno spogliatoio pesante come quello del Milan, parliamo oggi e ieri abbiamo parlato dei suoi ritardi, uno come lui che tipo di rapporto può avere in questo momento con lo spogliatoio che abita? Beh, certo, quello non fa bene, il fatto di mancare di rispetto, perché poi è mancanza di rispetto il fatto di arrivare in ritardo. Te sei un professionista e proprio quando ma è credibile quello che scrive oggi, che ieri mattina Abbiati Kakà l'abbiano lui e altri rimproverato trasferendo quello che avevano sentito dai tifosi sabato notte? Cioè, cosa succede in uno spogliatoio nelle mattine dopo una contestazione così? Guarda, di solito lo spogliatoio, quello sano, è fatto proprio per mettere a posto determinate cose, soprattutto quando si tratta di un giocatore pur bravo, no, però giovane, che ha ancora tanto da imparare, ma soprattutto negli atteggiamenti, perché come giocatore non si discute, però purtroppo quando un giocatore destabilizza e rischia di destabilizzare uno spogliatoio, è giusto che i più vecchi, i più anziani possano intervenire. È quello che è sempre stato comunque lo spogliatoio Milan. Io mi auguro, anche perché in questo momento le cose stanno andando sin troppo male, anche ti dico, quando va male anche le situazioni favorevoli ti danno conto, perché poi contro il Genoa avrebbe meritato assolutamente la vittoria, però purtroppo quando gira male il calcio è questo, è proprio in questi momenti, invece di lasciarsi andare a su Twitter ha scritto determinate cose, il fatto di ritardare... si poteva evitare, sì, ma questo è quello che diciamo da ieri pomeriggio, Pier. Sì, sì, assolutamente. Ma insomma, io vorrei chiedere a Eranio se insomma lui riconosce il Milan nella polveriera di queste ore, perché io penso che soprattutto chi ha frequentato un altro tipo di Milan, e comunque ricordiamo insomma, questa società che ha vinto tantissimo in questi anni, insomma rimane un po' stralunato proprio per questo, perché tutto questo è veramente poco rossonero, o sbaglio? Sì, ma l'insieme di frasi che escono fuori, il fatto che Galliani non sarà il prossimo anno di nuovo dirigente del Milan, il fatto che comunque Allegri sempre la sua panchina è sempre comunque bollente, il fatto che questi atteggiamenti dei giocatori non fanno certo bene all'ambiente Milan, però dico, il mio periodo era un periodo vincente, perciò tutto si metteva a tacere con il risultato successivo, perciò era un momento magico, che anche quel Milan lì poi c'è stata una fase calante, che ogni problema comunque anche lì, magari non come adesso, però veniva un attimino fuori, anche perché la carta stampata, quando una squadra vince è vincente, poi alla minima cosa si cerca comunque di destabilizzare o all'esterno, o i tifosi, o comunque la carta stampata, di destabilizzare alcune situazioni. È quello che sta succedendo adesso, si spera in qualche, soprattutto il risultato con la Celtic che è fondamentale, soprattutto per Allegri in primis, e per dare un pochettino d'ossigeno a tutto l'ambiente. Grazie Stefano. Figurati. Grazie ciao, Stefano Ragno. Pier, abbiamo la borsa. Convocati. Intanto in Spagna scrivono che il Milan ha presentato un'offerta per Coque dell'Atletico Madrid, contratto da 4 milioni netti a stagione, trattativa tutta da aprire con l'Atletico. Non so, la vedo dura, Pier, soprattutto in questo momento non so chi faccia nemmeno eventualmente il mercato del Milan, però in Spagna lo scrivono e noi lo abbiamo detto. Ti leggo alcuni messaggi: 349 238 6666. Ti interrompo adesso, perché ho un'esclusiva con l'uomo che è arrivato ultimo al rally di Monza, Guido Meda, te lo passo. Guido Meda? Che animale. Vabbè, ma non è, cioè, io sono sportivo, piuttosto che ritirarmi ho deciso di arrivare fino in fondo con la macchina rossa. Sì, ho visto la foto di una gomma. Bravo, vedi? Di una gomma scoppiata su Twitter. vuoi dirci anche che cosa ne hai detto di quella gomma? Ma posso? Ma sì, dai. Per colpa di una gomma di merda che è andata in pezzi all'ultima speciale. Chi ha vinto? Ha vinto Dani Sordo, grazie, quello fa Farrelli, cioè terzo del mondiale, cioè. E ha battuto Valentino Rossi di un pugno di secondi. Hai chiesto a Valentino qualcosa di Toir, se poi è stato contattato, se mette lui i suoi 10 euro per far comprare Messi? Dovrebbe, visto che fa fatica a spendere gli interessi che maturano i suoi conti. Potrebbe comprare lui Messi, secondo me, farebbe un regalo a Toir e a tutti gli interisti. Ma ci credi? Ma no. Io no, io no. Assolutamente no. Mi sembra che Toir adesso abbia da pensare un po' cioè che una campagna acquisti feroce, dai, passerà ancora del tempo prima che la metta in piedi, no? Sì, ma non credo nemmeno che Valentino li metta i 10 euro. Boh, ma magari 10 euro li può anche mettere. Glielo dico domenica prossima se lo vedo. Allora aspettiamo la risposta. Va bene. Dai, grazie. Ti ripasso Pierluigi. Grazie Guido. Allora, Pier... solo una cosa volevo aggiungere, che in realtà sì. Guido ha realizzato il mio invito, perché io l'altra sera gli ho detto ci vediamo domani, lui mi ha detto no, domani faccio il rally di Monza, e io gli ho detto mi raccomando vai piano. andava forte, no, bene, piano è andato piano, è andato talmente forte che hai rotto il motore. No, ha rotto la gomma, ma vedi che noi siamo informati, la gomma ma noi siamo informati, ha rotto la gomma. Allora il Milan attuale spende 35 milioni di euro per la clausola di Coque, non credo proprio nemmeno io. E poi ancora il Milan meritava di vincere. Però, 3-0. Dire una cosa, sì. attenzione, questa se vuole una ricostruzione un po' maliziosa, perché Berlusconi, e questa è storia, appartiene a quella categoria di presidenti che, se sono molto intrigati dall'allenatore e dal progetto, poi possono anche fare grandissimi investimenti. Ora, sicuramente in generale questa è una è un momento nel quale il Milan non è in una fase espansiva, è in una fase di controllo di gestione, di controllo dei costi. Detto questo, attenzione, perché poi in realtà Berlusconi è, da questo punto di vista, dal punto di vista dei colpi di scena, è uno che insomma non è secondo a nessuno, per cui attenzione, prima di considerare tutto assolutamente impossibile. In questo momento secondo me non è nemmeno troppo intrigato dal progetto tecnico, ha probabilmente altri pensieri per la testa e quindi questo tipo di investimenti non c'è stato. Sì, poi il problema secondo me è che io non capisco chi possa aver alzato il telefono, chiamato l'Atletico Madrid, il procuratore di Koke, in questo momento storico del Milan, in cui c'è una dirigenza che sta uscendo e un'altra che non è ancora delineata in fase di ingresso. Ivo da Milano, buon pomeriggio. Salve. Prego. No, su Balotelli dico che dovrebbe avere 23 anni, no? Sì, ha 23 anni. Qui diamo il tempo di maturare, no? Non lo so, c'è un massacro continuo su questo ragazzo qui. Cioè, chi non fa quelle cazzate a 23 anni? Ma io non lo so, io, no, però Pier, 23 anni, 23 anni, non è più un ragazzino. Anni, ci sono giocatori che, ma va benissimo, io ribadisco, cioè io ho simpatia umana e la speranza che Balotelli svolti, però dico anche che a una 23 anni può anche fare quelle cazzate, però è la provocazione dopo, secondo me, o il fatto di non capire che in un momento come quello, cioè Kakà, che è uno che nella sua vita ha visto di tutto e di più, calcisticamente parlando, ed è abbastanza lontano, no, dal leader che va a parlare con la curva, l'altra sera l'abbiamo visto, ci ha messo la faccia, è andato a parlare con i tifosi, e ha fatto il leader, in questo momento io da Balotelli mi aspetto di più, poi io... Non lo so, è chiaro che ognuno poi nella sua vita fa quello che gli pare, è chiaro che il tweet non era offensivo, ci mancherebbe altro, non c'era niente di male, ognuno è libero di poter esprimere un punto di vista, se non offende gli altri non è violento e Balotelli non lo è minimamente stato, però è l'opportunità. Sì, è l'opportunità di essere sveglio alle 5, anche se hai fatto notte a vedere il tuo campione preferito di wrestling, secondo me potevi anche evitare, insomma, no, ma puoi anche essere sveglio alle 5 dalla Champions. Fare sesso multiplo e quello che ti pare, cioè nessun moralismo, sì, ci mancherebbe altro, ma di non twittare alle 5:11 dopo un pareggio in casa, poi il giorno che vinci il derby 4-0 puoi pure mandare le foto mentre balli in mutande. Queste sono regole, sì, diciamo, sì, non scritte, che sanno pure i calciatori di Lega Pro, cioè sono proprio normali forme di astuzia, di malizia, mi sembra incredibile che mi sembra una scivolata incredibile. Una provocazione. Che nasconde o un'ingenuità per la quale a questo punto dovremmo amarlo, secondo me, alla follia, perché se veramente Balotelli non capisce che non è il momento di mandare quel tweet lì, è perché, se è così, cioè se questo succede perché è talmente puro che non gliene può fregare di meno, allora lo amiamo, io lo amo alla follia, ve lo dico sinceramente. Ma se invece non è così ed è semplicemente non arrivarci, è abbastanza grave. Certo, Luigi da Cosenza. Ciao, sono il procuratore di Koke. Sì. Ciao. E quindi? Cercavate il procuratore? No, perché 35 milioni è una commissione abbastanza interessante. Quindi si può fare? No, assolutamente, perché io con 35 milioni da ex collega, lo dico, visto che ancora continuo a seguire comunque i campionati esteri, andrei a prendere un Van der Vaart e un Sakho, tanto per dire, magari servono più al Milan sia a centrocampo che in difesa, non mi andrei a buttare su un singolo giocatore. A parte questo volevo puntualizzare due o tre cose sul Milan e poi chiedervi quindi il vostro parere. Su Galliani, secondo me, ha fatto autogol con le sue fasi ad inizio stagione, quando ha detto che erano ultra competitivi, la difesa è completa, di qualità, eccetera, eccetera. Un tifoso, quello vero, ti perdona tutto, ma se non lo prendi in giro, a quel punto tutto ci sta, penso, contestazione e striscioni. Detto questo, ben venga Barbara, secondo me, comunque è sempre una faccia nuova che si affaccia nel Milan, magari affiancata da una persona però competente. Io non allontanerei Braida, si sente sentito, ecco. Ho l'impressione, Pier, invece, che Braida sia, dopo Galliani, il numero due nel mirino e ad andar via. Mi sembrano molto legati, mi sembra difficile pensare che la coppia possa scindersi. Grazie Luigi. Stefano da Verona. Stefano. Sì, salve, buongiorno. Niente, volevo fare un paio di considerazioni. Sì. La prima è su Galliani, che mi sembra che sia diventato l'ultima ruota del carro, nel senso che Galliani mi sembra che abbia sempre comprato giocatori importanti per la squadra del Milan, adesso se deve far quadrare i bilanci anche lui davanti a un proprietario il quale che gli mette a disposizione dei soldi e lui deve fare quadrare il tutto, secondo me. Sì. Seconda cosa è non difendiamo più Balotelli, per amor del cielo. A 23 anni lui deve presentarsi mezz'ora prima degli altri agli allenamenti e deve andare via mezz'ora dopo, solo considerato per i soldi, fior fior dei soldi che prende. È un ragazzo immaturo. Se noi continuiamo a dirgli che lui è un campione, che deve sempre migliorare il suo carattere, che deve migliorare in tutto, non gli andiamo incontro. Sì, io mi accontenterei, Stefano, Pier, che arrivasse in orario. Poi, detto che risulta in ritardo oggi e ieri, in passato non mi ricordo che sia stato segnalato. Sono un grande ritardatario. Io penso sempre che se tu hai vinto il derby, se stai facendo 27 gol a stagione, se sei in una condizione completamente diversa, a parte che sai che arrivare in orario nello sport professionistico e nello sport in generale è una forma di rispetto per gli altri, ma in ogni caso in generale nessuno ti va a rompere le scatole se le cose vanno bene, né i tifosi né i dirigenti, soprattutto se sei un giocatore comunque talentuoso e del quale non dobbiamo fermare l'estro, perché la forza vera di Balotelli, così come la forza di Cassano negli anni, è stata anche la capacità di essere liberi, no? E quindi a questo tipo di giocatore tu gli perdoni qualcosa in più, proprio perché sai che quella è un'espressione quasi artistica della fantasia del giocatore, quindi non ci sarebbero assolutamente problemi. È tutto quello che è successo dopo il fischio finale di Milan-Genoa, che secondo me non è particolarmente maturo, intelligente, che fa addirittura pensare che sia una provocazione, perché se c'è un giorno in cui devi mettere la sveglia mezz'ora prima è proprio questo. Poi magari fra 3 settimane fai due doppiette, il Milan recupera, passa il girone in Champions, va molto sereno e poi tornare a fare sarà lì a guardare quello i tre che facevi minuti prima o i 10 minuti. Sai che l'ottimo Franco Piantanida mi ha segnalato che c'è un ragazzino di 19 anni di cui si parla tanto, ma forse non abbastanza, che sta facendo meglio di Pato, Del Piero, Vieri, Gilardino, Balotelli e Totti tutti insieme. 7 gol nelle prime 9 partite a 19 anni. Sai chi è? Chi è? Berardi, Sassuolo. Berardi, d'altra parte c'è Zaza, Berardi fino in fondo, Berardi lo cerca col destro anche per creare qualche difficoltà alla difesa dell'Atalanta, poi Berardi al 22esimo minuto della ripresa segna il 2-0 per il Sassuolo, e adesso per l'Atalanta è davvero molto dura. Tutti convocati. Tutti convocati. Berardi, grandissimo talento, Pier, 19 anni, è della Juventus. Ho l'impressione che Marotta, Paratici abbiano messo a segno un grande colpo, perché è un ragazzo che anche in Serie A sta dimostrando di avere dei numeri importanti. Allora, la Juve ha fatto tante cose, qui adesso il paragone col Milan in queste ore può sembrare anche fastidioso, perché ripeto, ci sono le fasi nella vita, quindi magari fra 2 anni cambierà tutto. Però se tu pensi che ieri l'asse portante è stato Pogba, Llorente, che sono due giocatori che sono arrivati praticamente a parametro zero, la differenza la fa questo, oltre ovviamente alla rete di giocatori che la Juve ha in giro, fra cui lo stesso Berardi. Quindi è un discorso di programmazione, ma c'è del tempo. Io sono sicuro che insomma, il Milan ha delle spalle talmente larghe che sicuramente uscirà da questa situazione, così come era successo qualche anno fa. Però questo è un momento, a Roma si dice, no, ci sono dei momenti che sei martello e dei momenti che sei incudine. Questo mi sembra abbastanza chiaramente della seconda categoria per il Milan. Ti sta ascoltando Roberto Renga a proposito di Roma, ambiente romano. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Ciao. Per capire, fra incudine e martello, Pallotta che cos'è adesso? Perché mi incuriosisce molto quello che sta accadendo intorno alla Roma, dentro la Roma. Vedremo stasera anche sul campo se queste cose lasciano uno strascico anche a Roma. Il Milan sicuramente è stato danneggiato dalle questioni societarie. Sì, io penso che la Roma non ne risentirà. Io penso anche che i giocatori in questo momento, come tutti i professionisti del mondo, guardano se arrivano gli stipendi. Poi dopo queste sono beghe societarie. E infatti Pallotta, che cos'è? Incudine o martello? Incudine o martello? In questo momento probabilmente più incudine. Sì. Più incudine, perché se arrivano i cinesi, e Unicredit lo fa sapere ripetutamente che sta trattando con i cinesi, cosa significa? Che arrivano dei soci di minoranza, ma molto molto pesanti, che già fanno sapere tramite Unicredit, le voci che circolano e che escono dalla banca, che verrebbero qui non soltanto a guardare e che in futuro vorrebbero fare i soci di maggioranza. E questo nel momento in cui, come tutti sanno, Pallotta ha messo all'interno della Roma moltissimi consulenti, cioè la Raptor, che è la sua, che guadagna moltissimo e molto bene, sta molto bene con la Roma, si trova a suo agio, e nel momento in cui probabilmente sta per partire il progetto stadio, che come sappiamo il progetto stadio significa soldi per tutti, non soltanto per Pallotta, significa per tutti quelli che faranno gli stadi. E in questo momento quindi non è che si sta discutendo di briciole, si sta discutendo di cose molto serie. È pensabile secondo te, Pier, una situazione che poi nei prossimi mesi possa risolversi in un vero e proprio confronto per la maggioranza? L'hanno scritto in tanti, se entrano i cinesi difficilmente entrano per restare lì, mettere i soldi, non comandare, fare gli azionisti di minoranza. Cioè, c'è alle viste qualcosa che attraverserà la Roma probabilmente nei prossimi mesi, così come in questi mesi ha attraversato l'Inter? Sì, mi sembra che ci siano degli elementi in comune con l'Inter, perché è vero che la quota di Toir è stata una quota di maggioranza, ma probabilmente anche Moratti in cuor suo avrebbe preferito un'iniezione di denari, ma senza perdere il 51%. Non gli è stato possibile, perché alla fine Toir è venuto per prendersi la maggioranza. Chiaramente i cinesi non ne hanno la possibilità in questo momento, ma come diceva giustamente Roberto, hanno ambizioni e patrimoni tali. Detto questo, di solito il problema è come succede, no, con le donne. Cioè, il problema non è qui ci sono degli spasimanti, no? La Roma ha degli spasimanti, anche degli spasimanti molto importanti, e quindi mi sembra comunque complessivamente per la Roma una buona notizia per il calcio italiano. Sicuramente i giocatori hanno ancora più garanzie che gli stipendi arrivino, anzi hanno probabilmente anche la possibilità di pensare a un futuro molto, molto luminoso. Certo, qualche scricchiolio e qualche turbolenza dal punto di vista dei rapporti ci può essere, quindi anche qualche nervosismo in queste settimane ci può essere. Ma è ipotizzabile, Roberto, che Pallotta in qualche modo faccia a sua volta una controfferta? A quel punto avrebbe, credo, un canale privilegiato per Unicredit. Beh sì, la dovrebbe fare, però almeno pari a quella che faranno i cinesi. Ma è ipotizzabile? Ha la forza, ha la volontà? Secondo me no, non credo. Io, perché ne so che in questo momento Pallotta, come è la sua professione del resto, sta racimolando, forse ha già trovato i soldi per fare lo stadio. Fare lo stadio significa spendere circa più o meno 200 milioni. E se tu adesso ti vai, subentri di nuovo con una cinquantina di milioni, poi devi fare anche l'aumento di capitale, e beh, cominciano a diventare cifre che Pallotta sicuramente non aveva preso in considerazione. Perché, come sappiamo, finora a mettere i soldi, a prestarli, diciamo, più che metterli, che questa è la funzione di una banca, ecco, ha pensato soprattutto la banca. Pallotta si è trovato in una situazione di assoluto privilegio per il fatto che sono stati proprio gli emissari della banca andare 3 anni fa negli Stati Uniti a pescare un signore che si chiamava zio Tom Di Benedetto. Poi Di Benedetto ovviamente voleva anche essere lo stipendio, era fuori dal mondo eccetera eccetera, e subentrato Pallotta. Pallotta in questo momento è come un'ancora di salvataggio è stato per la Roma, perché altrimenti che fine faceva? Adesso lui è in una posizione di privilegio che non intende perdere, lo capisco del resto. Sì, stasera che Roma vediamo? Ma secondo me è una Roma buona. A questo punto mi sembra che siano due le squadre, no, destinate a lottare per lo scudetto, una è la Juventus e l'altra è la Roma. Ah, io continuo a puntare sul Napoli, Pier. Ancora? Io continuo a puntare, so che Pier ha un'idea diversa, però sono convinto che è ancora talmente lunga. Ho letto che rientra destro, almeno tra i convocati, in panchina. È un giocatore che può avere un ruolo in questa Roma? Sì, può avere un ruolo, ma sai, in questa Roma se Totti sta bene gioca Totti, dopodiché ci vuole qualcuno che sostituisca Totti quando Totti non lo sta bene, oppure si stanca, oppure magari che possa sostituire Gervinho. Allora ecco che destro forse ha caratteristiche più adatte al calcio che ha in testa Garcia piuttosto di Borriello, però Borriello rappresenta l'alternativa di gioco, quindi in realtà servono tutti. E ben tornato a destro finalmente, dopo tutti i giochi che sono stati fatti sulla sua pelle. Pier, cosa ti aspetti dalla Roma questa sera? Io penso, lo sapete, io penso che la Juve sia la grande favorita del campionato, lo dicevo anche quando era meno 5, però io credo che questa sia una potenzialmente un turno, se la Roma dovesse vincere stasera, eccezionale per la Roma, perché secondo me la Roma deve fare prima di tutto la gara per prendersi un posto fra le prime 3, possibilmente fra le prime 2. E insomma, una sola ha vinto delle prime 8 fino a questo momento, può essere veramente bingo per la Roma se dovesse vincere stasera. La Roma ha compattezza, grande forza di squadra, secondo me ha investito molto in queste prime giornate, perché il calcio di Garcia è stato un calcio stupendo a tratti, ma un calcio basato molto sulla, proprio su un'intensità estrema per tante partite. Addirittura non solo la Roma non subiva gol, ma non subiva tiri in porta, non subiva occasioni, e questo è stato dovuto a una serie di coperture eccezionali che questa squadra ha fatto, che però hanno portato adesso qualche infortunio, qualche cartellino di troppo, qualche situazione che poi alla fine in prospettiva si può aver pesato. Io penso che stasera sia favorita, penso che il rientro di Gervinho sia fondamentale, è mancato moltissimo nelle due partite contro Torino e Sassuolo, perché è un giocatore che soprattutto se tu vai in vantaggio ti dà la possibilità di strappare in contropiede in maniera eccezionale, quindi io penso che la Roma sia chiaramente favorita stasera. Sì, ha avuto un passaggio difficile, lo ha pagato con due pareggi, probabilmente da stasera la situazione è normalizzata, è destinata anche a migliorare, perché mi risulta, abbiamo pochi secondi Roberto, che Totti non sia lontanissimo dal rientro. No, però nemmeno troppo vicino. Con Totti bisogna stare molto cauti. È certo che la Roma è favorita nei confronti del Cagliari, che Cagliari mi sembra che abbia commesso l'errore di essersi fermato all'anno scorso, mentre quando tu ti fermi anche nel calcio sei perduto. Il Cagliari mi sembra meno forte. Certamente, grazie Roberto Renga. Buon pomeriggio, buon ciao. Lavoro ciao. Grazie Roberto Renga. Pier, appuntamento domani? Assolutamente, siamo qui, non ci muoviamo e non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Tra l'altro torna Carlo Genta, lo dico ai tanti che scrivono preoccupati, torna, solo ha risolto la pubalgia. Ma no, ha preso solo un paio di giorni di riposo, fa anche lui come Totti, come Mexes, come gli altri che non ci sono, come Cristiano Ronaldo, che salta una decina di giorni. Ci fermiamo, informazione, ciao Pier. Ciao. Tutti convocati. Un giro molto importante per me qui all'Interlagos, all'ultimo Gran Premio qui con la Ferrari. Secondo me tutto quello che devo dire è ringraziare tutte le persone che ho lavorato insieme, tutte le persone della Ferrari, tutte le persone che sono che hanno fatto parte di tutte le gare che ho fatto, ma tutte le persone di casa. Tutti i tifosi qui che sono qui, ma anche tutti i tifosi di tutto il mondo, italiani, tutto il mondo, che mi hanno sempre dato forza. Per me è un piacere enorme essere qui, quindi devo solo ringraziare tutto questo momento fantastico che abbiamo passato insieme. Sono molto contento, emozionato, e grazie mille a tutti voi. Spero veramente un futuro fantastico per me, ma anche per la Ferrari, che sarà sempre dentro il mio cuore. L'ultimo giro di Felipe Massa sulla Ferrari ieri a Interlagos poteva finire meglio anche per Massa, non solo per la Ferrari, però non esageriamo. Marco 349 238 6666, essersi liberati di Massa mi dà la stessa sensazione di liberarsi da un pranzo dalla suocera. Marco, non esageriamo, Massa è stato comunque anche un ottimo pilota, soprattutto prima dell'incidente in Ungheria. Andrea da Brescia, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Una constatazione breve e una domanda. Sì. Io sono un tifoso del Milan, ma soprattutto sono un tifoso del bel calcio. Mi piace del calcio, quando il Milan gioca male si merita di perdere, lo dico, e non credo di essere fazioso. Sul Milan, quando tu vendi Thiago Silva e Nesta, perché Nesta poi aveva avuto gli anni che aveva, devi pensare a rinforzare quel reparto lì. Credo che questo sia stato il principale errore. Aveva ragione Sacchi, alcuni anni fa fece un'intervista e disse che Gagliani è un bravo manager, ma è un po' nostalgico, diciamo, affitto un po' da bauscaggine. Credo che questo sia vero. Sì, io penso, Andrea, che Gagliani sia un ottimo manager, che poi le politiche le facciano come è legittimo che sia, e non solo al Milan le proprietà. Se a un certo punto Fininvest ha detto che il Milan deve camminare con le sue gambe e non sono più previsti investimenti se non per ripianare passivi fisiologici di bilancio, Gagliani e Braida fanno fatica a fare mercato esattamente come tutti gli altri. È la stessa parabola, credo, dell'Inter, della Juventus e di tante altre società. Non si può cancellare, secondo me, in un attimo quello che ha fatto Gagliani per 25 anni, e non fatemi fare l'avvocato di Gagliani, però bisogna anche avere memoria di quello che è stato. Grazie comunque. Mimo da Bari, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Io volevo fare solo una piccolissima considerazione su Mazzarri, l'allenatore. Sì. Io sono interista da quando avevo 3 anni, no? Sì. A me tutto questo fenomeno di allenatore non mi sembra, perché tutti dicono che Moratti negli ultimi anni non ha comprato niente, però noi l'Inter abbiamo anche dei fior di giocatori, Guarin, guarda Palacio, guarda Juan Jesus, il portierone che è il migliore d'Europa. Sì, e siamo arrivati a 4. Poi Juan Jesus è un buon giocatore, è sicuramente un prospetto, credo non sia ancora a livello dei migliori in Europa, però prego Mimmo. Però scusi, sì, volevo dire, ieri fa una sostituzione, serviva l'altra punta che stavamo in difficoltà col Bologna, lo fa entrare a 7-8 minuti alla fine. Non è che l'Inter stava giocando col Real Madrid o col Barcellona, il Bologna tolto diamanti, sono una decina di giocatori. Sì, Mimmo che... hai ragione, adesso lo facciamo sentire Mazzarri. Io però sottolineo che nel primo tempo, che pure l'Inter aveva iniziato bene, è bastato sbilanciarsi per prendere il gol in contropiede. Lo ha detto Mazzarri, lo ha detto nelle scorse settimane, è una squadra che non ha ancora tutti i suoi equilibri a posto. Ieri sera meritava, credo, ampiamente di vincere. Comunque sentiamolo Mazzarri ieri sera. Anche altri palle gol clamorose, perché la palla gol di Guarin in secondo tempo, le due di Palacio nel primo e poi quella di Cambiaso, insomma ce ne state altre, ma sono quelle partite che nascono sotto una stella che a volte le può anche perdere. Io l'ho persa, mi sembra, 2 anni fa a Bologna, più clamorosa di oggi, con un tiro in porto, 2 in contropiede negli ultimi minuti. Noi abbiamo sbagliato l'impossibile, abbiamo perso. In ogni caso credo che adesso Sampdoria e Parma in casa, poi la trasferta a Napoli, poi il derby prima di Natale daranno l'esatta dimensione di questa Inter, che secondo me non è ancora da terzo posto, secondo me. Però è vero che non è nemmeno lontanissima dal Napoli, anche se i punti di distanza dalla Roma sono tanti. Massimiliano da Torino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Ascolti, io stavo sentito il discorso di Galliani, che lui giustamente deve seguire comunque il padrone. Sì. Per un discorso di spese, ma questi 12 milioni di euro per Matri, si potevano comprare 3-4 giocatori della Lega Pro come difensori, secondo sì, me. E dove si va con 3-4 giocatori della Lega Pro come difensori? Ma non serviva un'altra punta. Cosa ce ne facevamo di un'altra punta? Su questo io sono d'accordo. Secondo me non serviva nemmeno un trequartista. Il Milan poteva continuare a giocare come aveva giocato quest'estate, come aveva giocato la passata stagione. Però detto questo, anche dire con quei soldi si potevano prendere 3-4 difensori della Lega Pro è un discorso che va benissimo, va bene tutto, però probabilmente il Milan non avrebbe fatto quel salto di qualità. Forse 12 milioni non erano sufficienti nemmeno per prendere un buon difensore, quello che serviva al Milan, o no? Però come giocatori giovani, visto che c'era il discorso di creare una squadra per il futuro, secondo me si poteva, per fare i risultati che stiamo facendo adesso, a questo punto si poteva investire così. Sì, si poteva anche tenerli in casa, i 12 milioni, poi vallo a spiegare ai tifosi a fine agosto, perché bisogna tornare indietro a fine agosto, quando invece l'acquisto di Matri era piaciuto e molto anche ai tifosi del Milan. Grazie comunque. Fabio da Verona. Eccomi qua. Prego. Ascolti, niente, una precisazione. Io sono 30 anni che ho l'abbonamento al Milan. Sì. Da quando ho comprato Berlusconi io ho sempre avuto l'abbonamento. Ho visto tutte le finali di Champions, tante partite. Dico, sono andato anche a Tokyo. Quando si parla di Balotelli, io, per fortuna, ho visto Ibrahimovic, Van Basten, Shevchenko, ma lo stesso Massaro, lo stesso Inzaghi, Guea. Ci sono gli anni luce da Balotelli. Sì, ma su Balotelli si è sempre scommesso sulla sua potenzialità di essere un campione. Esatto, si continua a dire. A 23 anni è il momento che cominci a dimostrarlo e sta bucando forse la stagione più importante della sua carriera. Questo secondo me è il giudizio che si può dare su Balotelli, o no? Sì, perché esatto, continuano a dire che è forte, ma io li ho visti quelli forti, è un'altra roba. Sì, ma sicuro, se facciamo il paragone tra questo Balotelli e il Van Basten e tutti gli altri che lei ha citato, ne riparliamo a fine carriera. Ripeto, secondo me il messaggio è che Balotelli sta sbagliando la parte più importante della sua carriera e la stagione più importante. Poi vediamo, questa è una stagione che finisce col Mondiale, magari a giugno, a luglio siamo qui a fare discorsi completamente differenti. A proposito di campioni che hanno cambiato il loro destino in poche settimane, ce n'è uno, la Juventus, che passava per essere soltanto bello, adesso è bello, utile ed è diventato titolare. Stiamo parlando di Llorente. In Spagna avrebbe detto golazo de Llorente oggi, no? Perché è un gol bellissimo. Sì, si può dire così, no? Credo che abbiamo fatto una bella partita, sappiamo che oggi ci giochiamo moltissimo, che era una partita difficile, come è stato alla fine. Credo che la seconda parte soprattutto abbiamo giocato bene in attacco, creando occasioni più clara. Alberto dalla provincia di Milano. Buon buongiorno. Buongiorno, intanto ufficiale la variazione della giornata 14esima della Serie A. Juventus va, Juventus Udinese, la partita con i bambini in curva viene spostata dalle 20.45 alle 18.30, Catania-Milan resta alle 12.30, non ci sarà posticipo serale. Prego Alberto. Buongiorno, una piccola considerazione. Dica. Io ho 51 anni, faccio il dirigente sportivo anche se in un altro settore, la pallavolo. Però quella fascia di età di ragazzi maschi e femmine che vanno dai 18 ai 25 sì. anni credo di conoscere abbastanza bene. Se io penso a Mario Balotelli che non si rende conto della fortuna che ha e delle capacità che ha, è veramente buttar via una carriera. Dovrebbe prendere esempio da Marco Tardelli che all'epoca aveva vinto il premio come sì, miglior, come miglior giovane 23 in certo. Italia. E dovrebbe prendere esempio da tanti, secondo me, anche al Milan, ne parlavamo anche prima con Pierpardo, anche da Kakà ad esempio, per la capacità che ha avuto Kakà di ricalarsi in una realtà oggi difficile come quella del Milan. Vediamo, ha ancora qualche mese davanti, forse un anno per compiere il salto di qualità, per completare il processo di maturazione, e ovviamente ce lo auguriamo tutti, però dobbiamo raccontare quello che è oggi, e oggi Balotelli è questo. Grazie Alberto. Alberto, nel calcio di oggi la riconoscenza non esiste, le epoche sono cambiate, io credo rimpiangeremo Moratti, Gagliani e tutti gli altri, Giorgio da Pesaro, in parte sono d'accordo anch'io. Abbiamo finito qui, l'appuntamento con tutti i convocati è per domani 14.05, torna Carlo Genta, torna Pierluigi Pardo. Io intanto ringrazio Roby Scaltritti, Franco Piantanida, autore di questa puntata. Ci lasciamo con Andrea Luci, con la sua storia che ha commosso l'Italia del calcio, noi speriamo possa avere un epilogo bello, l'epilogo che sogniamo tutti. Un saluto da Giovanni Capuano. Non era facile rendere pubblico tutto quello che mi è successo, però parlando anche con la mia famiglia e anche gli altri malati in Italia, ho fatto tutto questo perché in Italia questa malattia è poco aiutata, pochissimo aiutata dallo Stato, da tutti, quindi l'unico modo per cercare di farmi sentire era questo modo, per aiutare non solo mio figlio ma anche tutti gli altri malati che hanno bisogno, perché è l'unico modo perché possiamo avere una speranza è mandare avanti la ricerca. Tutti convocati.